Palla Spicchi con Carlo Genta. Di nuovo buonasera a tutti, risultati incredibili, anche sorprendenti se vogliamo, quelli della dodicesima di ritorno con Siena che perde in casa. Non ho fatto i conti, quindi non so dirvi da quanto tempo non succedeva questo. Perde in casa con la Benetton Treviso che è andata a Siena a giocarsi le ultime cartucce playoff e se le ha giocate benissimo. Vince Treviso 99-96, quindi la Banca Tercas-Teramo supera la Scavolini-Pesaro, Scavo Spar 69-69 a 6-1-61. E poi si giocava naturalmente per la salvezza, scontro a distanza tra Ferrara e Cremona e vincono entrambe, Ferrara in casa con Montegranaro 77-75 dopo un overtime, Cremona che fa il colpo a Bologna con la Virtus vincendo 68-65. In trasferta la vittoria della Pepsi Caserta, anche qui dopo un supplementare con un incredibile canestro di Bowers da 10 metri a fil di sirena, vittoria Caserta 88-85. Intanto all'ora di pranzo c'è Milano che aveva perso come al solito peraltro in casa contro Roma, perché la serie dei successi consecutivi della Lotto Matica Roma a Milano è ormai lunghissima. Vittoria di misura per Roma su una Milano priva di Petravicius, 66-64, una partita un po' sclerotica. Poi ne parleremo con Flavio Tranquillo che l'ha commentata per Sky, tra l'altro. Dario Ricci, buonasera, classifica. Buonasera Carlo, subito la classifica della Serie A a 3 giornate dal termine della stagione regolare. In testa ancora chiaramente Siena, 46 punti, poi il secondo posto per Caserta, 32, appaiata con Cantù, sempre a quota 32, a quota 30 invece Armani Jeans Milano e Canadian Solar Bologna, a 28 Sigma Coatings Montegranaro e Lottomatica Roma, ottavo posto condiviso da Benetton Treviso e Air Avellino, ma trevigiani in vantaggio per quelli che sono gli scontri diretti. Poi al decimo posto Banca Tercas-Teramo e Scavolini Pesaro a quota 20, 18 punti per Angelico Biella e Cimberio Varese, chiudono a quota 16 Vanoli, Cremona e Carife Ferrara, che continuano testa a testa nonostante le imprese di oggi. Io credo si possa parlare di impresa per Cremona a Bologna, ma lo chiedo a Stefano Valenti per Superbasket e per noi. Stefano. Ciao, buonasera. Sì, impresa che poi alla fine abbiamo scoperto qui rivelarsi assolutamente fondamentale alla luce della vittoria di Ferrara in rimonta su Montegranaro. Dunque il gruppetto si assottiglia, Biella riposava, Varese ha perso nel modo rocambolesco ma sempre inseguito che hai prima illustrato tu. Cremona ha vinto con una partita arcigna, con una partita fatta di una buona continuità in difesa, con una partita che è stata vinta perché entrati negli ultimi minuti sul 61 pari, fallo sistematico in lunetta da una parte all'altra, Cremona ne ha messi 7 su 8, Bologna ne ha messi 4 su 6, l'ultimo possesso è stato Virtus per cercare il canestro del pareggio, la tripla del pareggio, il tiro di Andre Collins è stato quasi deviato, un po' stoppato, insomma palla in area ma partita finita qui. Una partita che si è conclusa con disappunto del pubblico di Bologna, un po' di fischi, un piccolo battibecco che Lino Lardo sta spiegando adesso in conferenza stampa, che ha minimizzato, al tempo stesso non ha voluto entrare poi nel dettaglio con un spettatore del parterre insoddisfatto. È chiaro che questa è una Virtus che sta denunciando un po' alla corda non solo la perdita di Koponen, ma una squadra che nelle ultime 4 partite appunto ha manifestato sintomi di calo, di forte flessione. Cremona ovviamente bene, entusiasmo, una vittoria che appunto consente a Cremona, come ha detto Attilio Caia, di mantenere il servizio a favore, perché è noto che in caso di arrivo a parità Cremona ha il vantaggio della doppio scontro con Ferrara. Perfetto, grazie Stefano Valenti. Dunque una Virtus Bologna che perde i pezzi e ha poca energia in prospettiva playoff, sembra aver finito la benzina sul più bello, al di là dell'infortunio del suo giocatore leader, onestamente inatteso leader come Petteri Koponen, che si è fatto male, non giocherà più da qui alla fine della stagione. Dunque, la vittoria di Cremona è stata fondamentale perché Ferrara ha battuto Montegranaro e quindi, come diceva Tigliocaia, no, mantiene il servizio Cremona. Ferrara, bel successo al supplementare proprio su Montegranaro, 77-75, i parziali 13-15, 31-35, 51-53 fino al 67 pari alla sirena finale e poi quindi il risultato finale acquisito al supplementare. Per quanto riguarda il tabellino, tra i ferraresi spicca la prova straordinaria, 38 di valutazione di Sherrod Ford, 28 punti in 40 minuti, 10 su 20 al tiro da 2, 8 su 14 ai liberi, 17 rimbalzi di cui 9 offensivi, Carlo, mostruoso. E 6 stoppate date. 38 di valutazione, una prova da marziano quella di Sherrod Ford per Ferrara. Ma ci chiedono, Dario, la linea subito. La linea da Siena, dove c'è Massimo Sollazzini per la sorpresona di giornata con Treviso che vince a Siena e riagguanta per la coda di playoff, a quanto pare. Massimo. Sì, buonasera, soprattutto con me, sicuramente uno degli artefici di questa impresa, Jasmin Repescia, coach di Benetton Treviso, che stasera ha effettivamente compiuto quanto non riusciva nessuno da quasi 3 anni a questa parte. Però poco fa in conferenza stampa coach ha tenuto a dire stiamo comunque con i piedi per terra, sostanzialmente dobbiamo capitalizzare tranquillità, giusto? Sì, sono veramente felici per ragazzi perché questa vittoria veramente ci serviva prima di tutto per togliere una scimmia sulla spalla, perché si è creata un'atmosfera oltre di ragazzi veramente negativa e ci serviva una vittoria per ritrovare la squadra per uscire da questo tunnel, diciamo. Non vorrei sopravvalutare la nostra vittoria perché lo so che hanno fatto gran lavoro atletico questa settimana e si vedeva che sono stati un po' stanchi, meno relativi di solito, ma fare 99 punti al loro campo, secondo me, come se mi ricordo bene, non è riuscito nessuno quest'anno in Eurolega e nostro campionato. Studio, se avete una domanda per Repescia. Ma solo un commento su una Treviso che sembra appunto aver acchiappato per la coda. Adesso mancano 3 partite, però i playoff che a un certo punto sembravano irraggiungibili. Vi sentite a portata di playoff a questo punto, che sembravano irraggiungibili fino a poco fa? Adesso noi diciamo da nostro destino, nostro futuro, perché siamo pareggiati con Avellino, abbiamo vantaggio a nostra parte, differenza canestri, speriamo che continuiamo a vincere, perché senza vittorie non si raggiunge playoff sicuro. Ma per me, come ho detto mille volte, raggiungere playoff per trovare alibi a me non interessa. Per me, se giocheremo come abbiamo giocato fino ad oggi, è uguale finire ottavi, noni o decimi. Per me interessa raggiungere playoff, se riusciamo ribaltare la stagione. Sicuro, questi sono segnali importanti che abbiamo visto stasera. Speriamo che ritroviamo adesso prossima domenica una atmosfera un po' diversa rispetto all'ultimo sabato e speriamo che continuiamo con le vittorie. Questo è il coach di Treviso che ringraziamo per la disponibilità. Massimo, invece la partita com'è stata? Raccontacela in un minuto. Ma la partita si è messa tutto sommato non benissimo da subito per Siena, perché già nel primo quarto Siena tirava peggio di Treviso, tirava col 56%, Treviso col 70%, solo che Treviso perdeva molte palle, ne ha perse il doppio di Siena nel primo quarto. Poi sono entrati un po' più evidentemente Guardinghi in campo e, per dirne una, nel secondo quarto Siena ha tirato il 33% e tutte le statistiche o quasi dopo sono andate incalando per i padroni di casa, che va detto, lo ha detto Repescia, lo ha sottolineato anche poco fa Pianigiani, probabilmente sconta in questi giorni una fase di carichi di lavoro che guarda necessariamente ai playoff e che quindi deve vedere in questa ottica anche quello che è accaduto oggi. Certo, questo che è accaduto oggi appunto non avveniva dal giugno del 2007, gara 1 di Siena contro Roma nella finale del scudetto, e quindi in qualche modo qualcosa conterà. È passato qualche giorno, l'ultima sconfitta in casa di Siena. Grazie Massimo. Grazie a voi. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Dario, diamo un'occhiata rapidissima alla vittoria di Teramo su Pesaro. Sì, 69-61, 16-23, 37-34, 51-49 i parziali. Per quanto riguarda il tabellino dei padroni di casa, spiccano i 14 punti di Drake Diner, 0 su 2 da 2, 3 su 7 da 3 punti, 6 rimbalzi abituali, diciamo, anche se Diner è una delle migliori guardie del campionato, fa sentire il suo peso anche sotto canestro. Poi gli 11 punti di Jurak, anche in questo caso uniti ai 6 rimbalzi, e poi 12 più 10 di Bobby Jones. Per i pesaresi, 13 punti di Marcus Green, 2 su 4 da 2, 3 su 10 però solo da 3 punti. Pesaro ha tirato con il 25% da 3, e poi 17 punti per Kvektovic, che è stato uno dei protagonisti della giornata. Non è bastato però per Pesaro. Pesaro, che sembrava la squadra, che forse è ancora la squadra più, una delle squadre più in forma del nostro campionato, alla vigilia del gran finale europeo per l'Euro Challenge. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Giornatina interessante, quella giornatina interessante. Vuoi sapere quanti giorni sono passati dall'ultima sconfitta di Siena? Guarda, appena fatto i conti, Massimo Sollazzini. Da 1062. Due anni, 10 mesi, 27 giorni, quasi 26.000 ore. Fatti i conti abbastanza precisi. Abbiamo sentito adesso Jasko Repesa, che ha detto, che ha sottolineato come adesso si aspetta di trovare un'atmosfera un po' più rilassata al Palaverde. Glielo auguro. Io vedo lo score della partita, vedo che hanno fatto 99 punti con 27 palle perse in 40 minuti. Devi tirare col 73 da 2 e 63 da 3, e a parte i numeri che stiamo dando, 73 da 2 e 63 da 3 anche senza motivazione non sono cifre da difesa di Siena. No, certamente, si è detto Siena ha lavorato sul piano atletico in settimana, ovviamente sta preparando i playoff, sta preparando il titolo, sta preparando tutto quanto arriverà, però resta il fatto che sono 1062 giorni. 1062 giorni, sono mica pochi. Repesa ha detto anche: se arriviamo ai playoff per trovare un alibi non mi va bene, se arriviamo per ribaltare la stagione allora mi va bene. Vedo dura la possibilità di ribaltare la stagione per la Benetton Treviso, che se arriva ai playoff torna su quel campo, e dubito che finisca allo stesso modo. Dubito anch'io, credo che sia una serie chiusa, credo che al momento, indipendentemente dalla quantità di problemi che abbia veramente il Monte dei Paschi, ce lo potranno dire solo i playoff, c'è una situazione in cui c'è Siena, poi c'è l'ottava, sarà Treviso, sarà Avellino, sarà qualcun altro, Teramo e Pesaro hanno una chance, tutto sommato sono a 2 punti di distanza, e poi in mezzo ci sono 6 squadre che fanno parte di una Macedonia, una di queste attendibilmente giocherà la finale. Certamente, brave Ferrara e Cremona, brave, e adesso direi che hanno riaperto i giochi per loro, e non solo per loro, perché almeno Biella e Varese le hanno tirate dentro definitivamente. La sfida metropolitana, Flavio, che hai commentato, che sapore ti ha lasciato a qualche ora di distanza? Rimango convinto di quello che ho detto appena è finita e che pensavo prima che cominciasse: chiunque vinca sarà contento ma con moderazione, e chiunque perda sarà ancora più scontento dello scontento che era prima della palla 2. Mi sembra più o meno quello che è successo. Avrebbero potuto vincere tutte e due, ha vinto quella che tutto sommato oggi mi sembra un po' più avanti, anche perché l'Armani Jeans mi sembra un'incompiuta, almeno finché Finlay non è veramente Finlay e non hanno deciso se aggiungere un giocatore e se aggiungerlo davanti o di dietro, però non vedo questa contentezza, perché la partita dell'automatica è fatta anche di ombre, di pause, di superficialità e di altre cose negative. Partita molto sclerotica, con grandi vantaggi rapidati, con tanti episodi, con tanti rimpalli, se me lo consenti. Sentiamo cosa ha detto invece Matteo Bonicioli. Questa vittoria sostanzialmente ci qualifica sicuramente al settimo posto nei playoff scudetto, tenendo conto della situazione nella quale ci trovavamo 3 mesi e mezzo fa. Abbiamo scalato 6 o 7 posizioni, quindi mi sembra che il lavoro della squadra e della società sia stato buono. Dopodiché è altrettanto chiaro che, venendo da una grave delusione interna nella meritata sconfitta contro Varese, il fatto di aver rimediato immediatamente vincendo su un campo tradizionalmente molto importante come quello di Milano, credo in qualche modo equilibri la situazione, insomma, ecco. Una qualità del gioco che non credo però ancora la soddisfi, coach. Si vede una Roma con troppi alti e bassi e anche la partita di oggi ne è stata la dimostrazione, no? Siamo molto, per non dire troppo, discontinui. Alterniamo momenti di vuoto totale dal punto di vista offensivo a momenti in cui attacchiamo con lucidità. Alterniamo momenti in cui non difendiamo e prendiamo dei contropiedi sciocchi a momenti in cui non passa nemmeno un ago. Ora è chiaro che, diciamo, per una squadra che 3 mesi e mezzo fa si trovava a 2 punti della Serie A2, il cammino fatto è un cammino discreto, però è altrettanto chiaro che se vogliamo puntare a obiettivi più significativi, che la squadra e gli investimenti della società si meritano, dobbiamo ancora fare dei passi avanti notevoli. Nota positiva di oggi, la prova di carattere di Luca Vitali, anche in questo caso non sono mancati passaggi a vuoto, ma sono arrivate anche le giocate decisive nel finale. Quanto pesa questa prova in prospettiva playoff, in particolare per un giocatore per voi comunque fondamentale? Ma guardi, io sono felice per Luca, così come sono felice anche per Jacopo Giachetti. Ho la fortuna di allenare 2 playmaker della nazionale che sono molto cresciuti in questo periodo, ognuno con le sue caratteristiche, le sue priorità. Sicuramente più Giachetti, un playmaker realizzatore, tanto quanto Vitali, un playmaker ragionatore che pensa prima alla squadra. Il fatto di aver lavorato con loro molto bene anche in prospettiva della nazionale è sicuramente per noi una cosa molto importante. Questo era Matteo Bonicioli incompiute, hai ragione tu Flavio, lo ammette, no, Bonicioli? Sì, direi che lo ammette. La curiosità che resta è quando cominceranno i playoff, se l'automatica dovesse riuscire a passare il primo turno e quindi dovesse levare di mezzo questioni relative alla pressione, la tensione, eccetera, eccetera, vederla a palla leggera, se queste involuzioni all'interno della stessa partita sono frutto più di un problema di testa o più di un problema di pallacanestro. Naturalmente. E Caserta che vince con un canestro di Bowers da 10 metri a Varese dopo un supplementare, un sacco di lotta, ed è lì al secondo posto con Cantù. Chi delle due secondo te? Ma non saprei onestamente dirti. In questo momento direi che Cantù gioca con più armonia, però Caserta è quella che ci ha messo più quantità dall'inizio della stagione, più garra. Non è un caso che in questa classifica pesino tanto, per esempio, i 2 punti presi a Treviso allo scadere, i 2 punti presi a Varese oggi allo scadere. Quelle non sono cose che succedono per caso. Anche Cantù ha raddrizzato partite allo scadere in trasferta, di quelle che ti fanno girare la stagione seconda, terza. Tutto sommato questa grande differenza, o anche sesta, la fa relativamente. Certo, sto guardando Rajon Rondo che tira un paio di liberi, Boston 66, Miami 64, 3-0-3 alla fine del terzo periodo di gioco. Si gioca nell'NBA e Boston gioca per chiudere questa serie, sembrava molto più aperta di quanto il campo non abbia detto, Flavio. Sì, sembrava aperta, sarei stupito se non la chiudessero oggi, comunque direi che la chiudono in 5 partite, male che gli vada, ed è importantissimo che la chiudano così velocemente, primo perché vincono, come direbbe coach della Palisse, e secondo perché vincono in fretta e quindi possono rigenerare le energie. Il secondo turno della Eastern Conference sarà molto molto interessante. Sta dando un'altra dimensione questa serie a Boston, che sembrava una squadra piena di problemi? Non lo so, onestamente non lo so, perché la Miami che ho visto in gara 2 e anche in gara 3 mi è sembrata una Miami rinunciataria, una Miami con dei problemi, una Miami con la testa a luglio, dove bisognerà intanto risolvere il rebus Wade, forse risolvere il rebus allenatore e poi pensare, se è stato risolto con successo il rebus Wade, che cosa mettergli attorno, perché se resta vuole delle garanzie e non mi sembra che questo sia il gruppo. Però certo, hanno vinto 3 partite, ne hanno vinta una senza Garnett, le novità con l'attacco e con la difesa, hanno ritrovato un certo tipo di Pierce, è promettente. Non sono ancora, in inglese si dice sold, venduto al 100%, però sono molto molto curioso di vedere cosa succede da qui in poi. Flavio, tra Dallas e San Antonio, la serie che mi sta veramente entusiasmando, come va a finire? Una vince e l'altra perde, perché questa perché è la incontrare il contusion nella post season, credo che sia meglio incontrare un rapinatore in un vicolo oscuro di New York la notte. Sì, decisamente, ma devo dire che oltretutto c'è anche un lato quasi romanzesco. Se pensiamo che a Indianapolis ai mondiali l'Argentina probabilmente ha perso una medaglia perché Ginobili è finito sulla caviglia di Nowitzki, poi l'anno dopo Dallas ha forse perso una serie di finali di conference contro San Antonio perché è finito sulla caviglia di Ginobili, e adesso Ginobili è finito col naso contro il gomito di Nowitzki e rischia forse di perdere la serie, siamo al romanzesco, no? Io credo ancora che Dallas sia leggerissimamente favorita, però gli Spurs di gara 2 e gara 3, se sono in grado di durare nel tempo, non sono solo una squadra in grado di battere Dallas, ma una squadra di vincere il titolo. Grazie Flavio, sentiamo a voi. Grazie, grazie davvero Flavio Tranquillo. Chiudiamo qui la Domenica dello Sport, anzi no, la lascio a Dario Ricci perché c'è Roma-Sampdoria che è in corso e lui ve la racconterà nel corso della serata. 0-0, 8 minuti e 29 secondi di gioco tra Roma e Sampdoria al momento. Ci sentiamo dopo. Grazie a Roberto Scaltritti in regia e a Giorgio De Luca in redazione. Ciao a tutti.